Dopo brevissimo tempo, Lisia, tutore e parente del re e incaricato degli affari di Stato, mal sopportando l'accaduto, raccolti circa 80.000 uomini e tutta la cavalleria, mosse contro i Giudei, calcolando di ridurre la città a dimora dei Greci, di imporre tasse al Tempio come agli altri edifici di culto dei pagani e di mettere in vendita ogni anno il sommo sacerdozio. Egli non considerava per niente la potenza di Dio, ma si appoggiava sulla potenza di migliaia di fanti, sulle migliaia di cavalli e sugli 80 elefanti. Entrato nella Giudea e avvicinatosi a Bet-Zur, che era una posizione fortificata distante da Gerusalemme circa 20 miglia, la cinse d'assedio. Quando gli uomini del Maccabeo vennero a sapere che quegli assediava le fortezze, tra gemiti e lacrime supplicarono con tutto il popolo il Signore che inviasse il suo angelo buono a salvare Israele. Lo stesso Maccabeo, cingendo per primo le armi, esortò gli altri a esporsi con lui al pericolo per andare in aiuto dei loro fratelli. Tutti insieme partirono con coraggio. Mentre si trovavano ancora vicino a Gerusalemme, apparve come condottiero davanti a loro un cavaliere in sella, vestito di bianco, in atto di agitare un'armatura d'oro. Tutti insieme benedissero Dio misericordioso e si sentirono così rafforzati in cuore che erano pronti ad assalire non solo gli uomini, ma anche le bestie più feroci e mura di ferro. Procedevano in ordine, con un alleato venuto dal cielo per la misericordia che il Signore aveva avuto di loro. Gettatisi come leoni sui nemici, ne stesero al suolo 11.000 e 1.600 cavalieri, tutti gli altri li costrinsero a fuggire. Costoro, in gran parte, riuscirono a salvarsi, feriti e spogliati. Anche Lisia, per salvarsi, fu costretta a fuggire vergognosamente. Ma, non privo di intelligenza, pensando alla sconfitta subita e constatando che gli ebrei erano invincibili, perché l'Onnipotente Dio combatteva al loro fianco, mandò a proporre un accordo su tutto ciò che fosse giusto, assicurando che a questo scopo avrebbe persuaso il re, facendo pressione su di lui perché diventasse loro amico. Il Maccabeo, badando a ciò che più conveniva, acconsentì a tutto quanto Lisia chiedeva. Quanto infatti il Maccabeo aveva presentato a Lisia per iscritto a riguardo dei Giudei fu accolto dal re. Il contenuto della lettera scritta da Lisia nei Giudei era del seguente tenore. Lisia al popolo dei Giudei salute. Giovanni e Assalonne, inviati da voi, ci hanno consegnato la decisione qui sotto riportata e hanno chiesto la ratifica dei punti in essa dichiarati. Quanto era necessario riferire al re, l'ho riferito, ed egli ha accordato quanto era accettabile. Se dunque conserverete il vostro buon impegno per gli interessi del regno, procurerò anche in avvenire di esservi causa di favori. Su questi punti e sui particolari ho dato ordine a questi due e ai miei incaricati di trattare con voi. State bene. L'anno 148, il 24 del mese di Dioscorinzio. La lettera del re si esprimeva così. Il re Antioco, al consiglio degli anziani dei Giudei e agli altri Giudei, salute. Se state bene, è appunto come noi vogliamo. Anche noi godiamo ottima salute. Menelao ci ha rivelato che voi volete tornare a vivere nelle vostre sedi. A quelli che si metteranno in viaggio entro i 30 giorni del mese di Xantico sarà garantita sicurezza e facoltà di usare, come giudei, delle loro regole alimentari e delle loro leggi, come prima, e nessuno di loro potrà essere molestato da alcuno per le mancanze commesse per ignoranza. Ho anche mandato Menelao per rassicurarvi. State bene, l'anno 148, il 25 del mese di Xantico. Anche i romani inviarono loro questa lettera. Quinto Memnio e Tito Manio, legati dai romani, Quinto Memnio e Tito Manio, legati dei romani, al popolo dei giudei, salute. Riguardo a ciò che Lisia, parente del re, vi ha accordato, anche noi siamo d'accordo. Riguardo invece a quei punti che egli ha giudicato dover riferire al re, mandate subito uno, dopo aver deliberato tra di voi, perché possiamo esporre le cose in modo conveniente per voi. Noi siamo in viaggio per Antiochia. Mandate dunque in fretta alcuni per farci conoscere di quale parere siete. State bene, l'anno 148, il 25 del mese di Xantico.